Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Così, a forza di discutere, mi inventai un falso reperto. Alla base delle statue il metallo aveva ceduto, lasciando piccole fessure dove potevi guardare dentro, nella cavità della scultura. Un giorno feci la faccia sorpresa, dopo aver spiato con l'occhio incollato a una di quelle. Mi girai e urlai: «Ho visto le ossa!» Sono Marzia Pasquariello, ho 48 anni, anzi 47, vivo a Modena e lavoro come fisioterapista. La vita vista dai bambini. La vita vista dai bambini è quando tutto era perfetto, come lo scricchiolio delle scarpe della festa, la domenica, di mio papà. Io sonnecchiavo sul divano di casa, era dicembre e nevicava. La campagna era quieta, dormiva. In sottofondo sentivo la voce alla tele di Paolo Valenti, che presentava le partite del giorno al 90° minuto. E poi lo scricchiolio delle scarpe di cuoio della domenica, di mio papà, che rimetteva la bottiglia della grappa al suo posto, nel mobile del salotto. Con la correzione al caffè della domenica lui si sistemava, correggeva la sua settimana di lavoro alla catena di montaggio. La domenica tutto era perfetto. Dopo pranzo, mia mamma e mia sorella guardavano i quaderni di scuola. Io sonnecchiavo sul divano, fuori nevicava. Il caldo della stufa, il legno di faggio bruciava crepitando e lo scricchiolio delle scarpe di cuoio della domenica di mio papà. La vita era perfetta, allora, e di questo caldo, per sempre, sarò grato ai miei genitori. Va fortissimo l'infanzia, a voi siete qui, non so se l'avete capito, però è un tema che va veramente forte. Sono le 16:08 minuti, quasi 9, oggi è lunedì 24 ottobre 2011 e la puntata di oggi è una puntata dedicata a, non solo all'infanzia in generale, ma a quella sensazione che si ha quando si è bambini che la vita sia perfetta. O no, non è vero, forse da bambini non si ha quella sensazione, da bambini semplicemente si vive quella vita lì, è dopo che hai la sensazione che da bambini la vita fosse perfetta. Quella che vi ho letto è un messaggio che mi ha mandato Marco e che era magnifico anche solo per la parola, per la frase lo scricchiolio delle scarpe della festa della domenica di mio papà. 349-238-6666 oppure voi siete qui @radio24.it. Adesso mi sono dimenticato di farlo prima, ma sul profilo Facebook del programma, anzi non sul profilo Facebook, sul profilo del programma, abbiamo chiesto già da venerdì di postare tutte le foto che avete, se avete digitalizzato o semplicemente se le avete fotografate con una macchina fotografica, dalla carta, dalla stampa, le foto di quando eravate bambini, perché se non è possibile raccontare per tutti voi com'era la visione della vita vista da bambino, quanto sembrava perfetta, c'è semplicemente venuto in mente a me, Tiziano, di chiedervi delle foto di quando eravate bambini, e in modo che io oggi possa, guardandole, cercare di raccontare una parte di quella vostra vita, una parte di quella felicità. Voi siete qui @radio24.it, invece il profilo del programma è Matteo Caccia, io sono qui. Se voi cliccate su mi piace potete fare tutto quello che dovete, altrimenti forse non potete caricare niente, giusto? Bisogna cliccare su mi piace. Ripeto, Matteo Caccia, io sono qui, per caricare le vostre foto oppure speditele a voi siete qui @radio24.it. E poi un ascoltatore proprio sul profilo mi ha mandato un link di una cosa che è scritta da Peter Handke, che è tra gli altri è uno degli autori del Cielo sopra Berlino, o meglio non è proprio uno degli autori del Cielo sopra Berlino, però quando Wenders girò quel film, oltre a usare le poesie di Rilke, chiese ad Handke di scrivere gran parte dei dialoghi del film. E c'è esattamente un pezzetto, che adesso vi leggo, di questo, credo che questo sia un monologo proprio tratto dal film, che dice così: quando il bambino era bambino, era l'epoca di queste domande. Perché io sono io e perché non sei tu? Perché sono qui e perché non sono lì? 349-238-6666 oppure voi siete qui @radio24.it. Poi ve ne leggo degli altri pezzi perché sono... è un po' al limite dello stucchevole, Però questo è il problema quando si ha a che fare con l'infanzia, è che si è sempre al limite dello stucchevole, mica solo quando si ha a che fare con l'infanzia, anche quando si ha a che fare con il calcio no. Con l'amore però sì. Infanzia e amore è subito a rischio scivolone sulla stucchevolezza. 349-238-6666. Oggi però parliamo di com'era la vita felice vista da bambina di Marzia. Quando andavo alle scuole elementari, all'età della banda di cortile, ogni tanto sconfinavamo oltre il perimetro dell'isolato per raggiungere il parco più vicino. Quella era una zona triste. Si trattava della striscia di parco che era formata dalle cinta delle antiche mura cittadine e che era circondata dai viali ad alta percorrenza, che sono quelli che circoscrivono il centro storico di Modena. In quel luogo c'era una strana mescolanza di mamme con i passeggini che appartenevano ai ceti borghesi, quelli che abitavano il quartiere Sant'Agnese, ma anche delle emigrate meridionali che avevano il marito ai fuochi, in ceramica, o che lavorava come manovale sull'impalcatura dei palazzi del nuovo villaggio giardino. Anche adesso la zona conserva un'aria da vecchio millennio. Da vecchio millennio e nuova esasperazione, in realtà. Ci sono le badanti che si riuniscono a frotte, divise per etnie, che vanno dalle ucraine del vicino teatro Storchi alle peruviane, nella città di San Pietro, fino alle Filippine, verso il finire di Viale Caduti in Guerra. Potrei, per l'età che ho, in questo momento vivere in qualsiasi posto al mondo. Non cambierebbe tanto per me, però poi è chiaro che il legame invece con i ricordi e con l'infanzia, in quel periodo lì proprio della mia infanzia, quello è fondamentale, insomma, per collegarlo alla città, e ho questo legame con la città Modena. C'era la stazione piccola, dove nei vagoni abbandonati incontravi i barboni che dormivano tra cartoni, giornali, e lì aleggiava con l'odore pungente di urina mista al ferro delle rotaie. Quello era un luogo da maschi. E se ti ci portavano voleva dire che ti consideravano una facile. Oppure no, oppure ti consideravano una di loro. Io ci sono stata due volte. La prima volta l'ho conquistata vincendo una gara in bicicletta. La seconda perché ho dato il mio primo bacio. Il monumento ai caduti invece era un'altra cosa. Il monumento ai caduti era vicino al Lido Park. Sembrava di essere in riviera, con i gelati, i dondoli, il jukebox. Vicino al Lido si aggirava un famoso impermeabilista. Me la ricordo, solo una volta l'ho visto esibirsi. E di lui ricordo la magrezza. Più che altro, si vedevano le costole. La nostra banda era costituita da quelli di Via della Cella, dotati di cerbottane e insulti spettacolari. Si era in corso una tregua, ad esempio, con quelli di Via Archirola. Tutti belli, con i denti puliti, vestiti a modo, senza il portachiavi a moschettone e senza le mani sporche di olio di macchina. Chi con il motorino, chi con la bicicletta, si affrontava la salita con il ghiaino e canaletti di scolo per arrivare fino al monumento. Nello spiazzo circolare, che per un certo periodo dell'anno era delimitato da aiuole fiorite e da corone di alloro, si ergono le statue dei soldati. Sono figure di ferro con elmetti in testa, dietro scudi che sembrano di pietra lavica. Caduti per me voleva dire morti, morti ma non sepolti. Per Piero invece voleva dire inciampati. Per Deborah atterrati, insomma, nessuno di noi sapeva esattamente chi fossero questi, ma tutti avevano la certezza che fossero uomini eroici e soldati, e quindi uomini di tutti. Così, a forza di discutere, mi inventai un falso reperto. Alla base delle statue il metallo aveva ceduto, lasciando piccole fessure dove potevi guardarci dentro, nella cavità della scultura. Un giorno feci la faccia sorpresa dopo aver spiato con l'occhio incollato una di quelle e urlai: «Ho visto le ossa!». Tutti ci chiedevamo veramente cosa significasse caduti in guerra, quindi il contatto più diretto era quello fisico, proprio con col monumento che vedevi, e il fatto che inventarmi un qualcosa di, che faceva parte del corpo, insomma, del cadavere, era comunque, era come, insomma, spingere un po' sull'acceleratore come si fa nei film horror. Mi precipitai verso la bicicletta per atterrare direttamente nel cortile di casa e abbandonarla con una mano davanti alla bocca, mostrando un plateale conato di vomito. Da allora non c'è stato più nessun contenzioso. Tutta la banda dichiarò di vedere nei pertugi le ossa e i crani dei caduti in guerra. Questo mi consentì di essere la regina del gruppo per tutta la stagione. Marco, quello bello, mi accompagnava a scuola, seduta sulla canna della bicicletta. Da allora ho sempre provato riconoscenza ai caduti in guerra. Solo più tardi, crescendo, ho realizzato che Marco mi avrebbe prima o poi comunque accompagnato a scuola. Quello era un pretesto. Era l'occasione per poter dire agli altri: guardate quanto è una di noi, per questo sto con lei. Io di lui invece mi ricordo che lo spaventavo. Lo spaventavo come fossi un essere alieno, altro che una di loro. Da piccolo ho letto un sacco di libri di avventure. Anche se stavo in un paesino non vuol dire che non potessi trovarne delle mie. E quindi sognavo come tutti, no? Le terre lontane, le frontiere del Far West, i colori del mare del Sud. Ero malato di Tex Willer o dei film con gli indiani. E poi leggevo le storie degli eroi di Mompracem e mi immaginavo a combattere su piroghe sotto il sole, mentre i campi intorno a Romentino erano bianchi di brina. Ci giravamo con gli amici per cascine abbandonate, sperando di trovare tracce del passaggio di qualche guerriero, maia magari, oppure indiani, indonesiani, giapponesi. E invece niente. Mai una freccia, mai un Chris, una stilla di sangue. E allora correvamo in bicicletta, lo facevamo velocissimi sulla ghiaia, sperando di cadere che magari l'adrenalina che producevamo ci facesse vedere quello che non c'era, che ci facesse tornare a casa con la sensazione di avere qualcosa da nascondere ai nostri genitori, quando invece eravamo semplicemente andati in tondo tra le risaie. Però una volta trovai qualcosa, forse, solo che non eravamo intorno a casa e non ero coi miei amici. Questo mi rendeva meno sicuro di me. Eravamo in montagna sulle Dolomiti, altipiano di Asiago, una delle poche volte in cui i miei ci portarono in alto invece che verso l'acqua del mare. Era un'estate calda e mi ricordo che si camminava per prati verdi in mezzo alle mucche con le campane al collo. Io fino ad allora avevo solo trovato 50 lire nella sabbia un giorno su una spiaggia e mi ero pure inventato che era una piccola parte del bottino di una rapina, e invece probabilmente erano solo i soldi persi da un bambino che sarebbe rimasto senza ghiacciolo. Quella volta lì però era diverso, perché nel 1916, durante la Prima Guerra Mondiale, lì si era svolta una battaglia campale gigantesca, con migliaia di morti. I corpi erano stati sepolti, le armi erano state distrutte e i terreni bonificati. Mio padre però mi diceva che forse qualche oggetto, qualcosa che tenesse la memoria di quel conflitto, lì ci poteva essere. Una gavetta, un proiettile, forse una baionetta. Di solito si trovano sottoterra, perché comunque erano passati 80 anni. E allora durante le gite io scavavo, cercavo qualcosa di marrone, perché sapevo che qualsiasi cosa avessi trovato sarebbe stato arrugginito, quindi marrone. E questo mi spingeva a camminare, non mi sono mai lamentato, nemmeno dei dislivelli. Quando trovai un piccolissimo pezzetto di metallo, indecifrabile nella forma e nella sostanza, fui felice e lo tenni per me. Non volevo che nessuno dicesse che poteva essere stato abbandonato da qualche altro turista molti anni dopo la mia battaglia. E poi qualche anno fa decisi che era una sciocchezza e che mi ero inventato che fosse un pezzo di cannone. E quindi l'ho buttato. E ho deciso che non serviva a trovare niente. Perché tutte le avventure di cui avevo bisogno le trovavo nelle pagine dei libri. Vecchi, nuovi, a fumetti, romanzi, qualsiasi. Purché ci fosse un mistero e un protagonista simpatico. Perché alla fine, quando non riesci a vivere fino in fondo la tua vita, almeno per un pezzo, no? Magari all'inizio, puoi provare a sognare di vivere quella di qualcun altro, anche se non esiste. E un giorno scoprì che non mi servivano guerre o battaglie, mi bastava una storia di ragazzini, che fosse scritta bene. E successe quando lessi Stagioni diverse, di Stephen King. Le cose più importanti sono le più difficili da dire, sono quelle di cui ci si vergogna, perché le parole immiseriscono, le parole rimpiccioliscono cose che finché erano nella vostra testa sembravano sconfinate, e le riducono a non più che una grandezza naturale quando vengono portate fuori. Ma è più che questo, no? Le cose più grandi, le cose più importanti giacciono troppo vicino al punto dove è sepolto il vostro cuore segreto. E potreste fare rivelazioni che vi costano, per poi scoprire che la gente vi guarda strano, senza capire affatto quello che avete detto, senza capire perché vi sembrava tanto importante da piangere quasi mentre lo dicevate. Ecco, questa è la cosa peggiore, secondo me. È quando il segreto rimane chiuso dentro, non per mancanza di uno che lo racconti, ma per mancanza di un orecchio che sappia ascoltare. Avevo 12 anni, quasi 13, la prima volta che vidi un essere umano morto. Successe nel 1960, tanto tempo fa, anche se a volte non mi pare poi così lontano, soprattutto la notte, quando mi sveglio da quei sogni in cui la grandine cade nei suoi occhi aperti. io sono Matteo Caccia, io sono qui al profilo Facebook su cui stanno caricando le foto le persone che stanno ascoltando evidentemente in questo momento e che hanno delle foto di quando erano bambini. Ce n'è una di Elisa in cui lei è su un divano e si copre la faccia con un giornale e scrive: odiavo e odio tuttora farmi fotografare. E poi c'è ancora, vabbè, dopo magari dopo ve le racconto con più calma. Invece andiamo a sentire che cosa voleva dire esattamente: ragazzi, io ho visto le ossa. Pronto, Marzia? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene. Ti disturbo? Beh, no, perché no, assolutamente. Si dice è una forma, semplicemente ti disturbo. Dove ti trovi esattamente? Adesso sono a casa. Ma tu lavori, tu sei fisioterapista, giusto? Dicevi? Sì, sì. E quindi fai dei turni? Come funziona? Sì, esatto, faccio dei turni che cambiano giorno per giorno, mattino, pomeriggio. Ma il tono soft della tua voce fa parte del pacchetto fisioterapia, nel senso che uno ha bisogno di essere confortevole anche nel tono di voce? Esatto, e poi anche prestare l'orecchio, no? Quindi ascolti tantissime storie con il mio lavoro. Che tipo di fisioterapia fai? Riabilitativa? Sì, esatto, in un centro prevalentemente ortopedico, quindi... È una cosa che fai da tanto? Da 20 anni. Ah, ok. Cioè tra poco vai in pensione, beh mica tanto, no, oggi no, mi pare che abbiano deciso che ti possa a 70 anni se non sbaglio. Senti Marzia, torniamo invece a quell'epoca, quanti anni avevi esattamente quando hai visto ste ossa? Una decina, quindi era il 74. E scusami, ovviamente cioè, le ossa non esistevano, no? Questo è il gioco, ok, però tutti quanti si sono adeguati a quella cosa lì? Sì, perché era nel ruolo, no? Bastava trovare l'uscita geniale e poi tutti si adeguavano. Senti, era un po' un teatro. E hai più rivisto, hai più frequentato le persone che hai frequentato in quel periodo, quei ragazzini, li hai più incontrati di nuovo? No, poi ho perso un po' le tracce. Alcuni sì, però proprio così, per strada, proprio... Non, Marco il Bello che fine ha fatto? Marco il Bello so che è sempre bello, Modena, è sempre bello, no, piuttosto calvo, mi ricordo che avevo tanti capelli scicci invece adesso. Che peccato, perché invece di solito è vero, no? Da bambino tutto era perfetto, adesso quello è pure calvo, anche se in teoria si dice che gli uomini invecchiano meglio. Benissimo, questa è una presa di posizione che, Marzia, capisco molto bene. Senti, tu nel frattempo ti sei sposata, hai avuto dei figli? Sì, sono sposata, è una ragazza di 16 anni. Che fa? Ustia, 16 anni è tosta, eh? 16 anni è bellissima, è una età bellissima. Ah no, lo immagino, però è anche complicata. Cosa fa adesso, il liceo, le superiori? No, fa il liceo linguistico. E come va? Molto bene. Ok, quindi siamo tranquilli, Marzia. Sì. Devo dire che mi sembra difficile che possa andare male avendo una mamma come te, che parla con questo tono e che sembra che comunque la vita sia un pochettino più semplice standoti vicino, Marzia. Invidio in qualche modo tua figlia e tuo marito. Senti, Marzia, ti ringrazio moltissimo per la chiacchiera e per il tuo racconto. Grazie a te, Matteo, grazie tanto. Ti auguro una buona giornata. Anche ciao, a te. Grazie. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Nella foto che ci ha mandato Marzia è in riva a un fiume, direi, che non è un fiume italiano perché è un fiume larghissimo. È in piedi davanti a questo ponte che potrebbe essere il Golden Gate, ma non è il Golden Gate perché non è arancione e perché poi ha delle travi che non sono quelle del Golden Gate. Comunque è vestita di nero, ha una shopper, una borsa di stoffa con scritto Howl, quindi è all'estero da qualche parte, ha i capelli rossi mossi dal vento e tiene, anche se leggermente nascosta, una sigaretta tra due dita. 349-238-6666. Si parla di quando la vita sembrava perfetta, di quando eravate bambini e la vita sembrava veramente perfetta. Anche se, visto che Marzia ha raccontato un pezzo della sua vita da bambina in cui ha fatto finta in realtà di trovare un reperto, di trovare delle ossa all'interno di un monumento, qualcuno che non si firma mi ha scritto: ah no, eccolo qua, Paolo da Borgomanero. A 15 anni ho trovato due teschi in un casotto nella vigna. Ho passato una sera in caserma dei carabinieri a fare un interrogatorio da paura, così dice Paolo, anche se di Borgomanero. E poi invece al profilo Facebook Rachele mi ha scritto: la felicità da bambina era ricevere 30 lire la domenica, 5 per i pescetti e 25 per il cinema dell'oratorio delle suore. Quante volte ci hanno fatto vedere Marcellino Pane e Vino. Marcellino Pane e Vino era quello che tipo lui moriva alla fine, no? Era una roba in cui lui stava in un convento, una roba del genere. Il mio mondo era quello. So che mi sembrava tutto più grande. Piazza Testaccio mi sembrava grandissima. E anche le distanze erano più distanti. 349-238-6666. Volevo leggervi però ancora un altro pezzettino di... Ah, Peter Handke, che se qualcuno mi sapesse dire, cioè, ci sarà qualcuno di là che sa dirmi se questo è un pezzo da Il cielo sopra Berlino, no? Quando parla, dov'è? Eccolo qua. Quando il bambino era bambino, su niente aveva un'opinione, non aveva abitudini, sedeva spesso a gambe incrociate e di colpo sgusciava via. Aveva un vortice tra i capelli e non faceva facce da fotografo. A ogni monte sentiva nostalgia di una montagna ancora più alta e in ogni città sentiva nostalgia di una città ancora più grande. Sulla cima di un albero prendeva le ciliegie tutto euforico, come ancora oggi. Aveva timore davanti a ogni estraneo e continua ad averne. Aspettava la prima neve e continua ad aspettarla. Quando il bambino era bambino, lanciava contro l'albero un bastone, come fosse una lancia, e ancora continua a vibrare. È un pezzo del cielo sopra Berlino. Grazie a Bonini che finalmente l'abbiamo capito. 349-238-6666. Ma se siete davanti a un computer, in questo momento, e se avete un profilo Facebook, andate a vedere sul profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia, io sono qui, tutte le foto che sono arrivate, e se ne avete da caricarne, caricatene, come questa. Ecco, Anna, io sono a 2 anni, avevo pianto fino a 2 secondi prima perché accanto a me c'erano i miei genitori e mio fratello e io volevo posare da sola. Ero una prima donna già a quell'età, c'è una foto di lei che c'ha tipo 2 anni. Ne ho scelte però 5 di tutte le foto che sono arrivate. Ne ho scelte 5 che erano un pochettino più raccontabili. E le 5 foto che sono arrivate, che raccontano di quel periodo lì, di quando la felicità sembrava portata di mano, sono queste qui. C'è il viso di un bambino in primo piano. È seduto sulle gambe della mamma. Della mamma però si vedono solo le mani. Davanti a lui invece, appoggiati su un tavolo, ci sono 2 bicchieri e una farfalla. Ha delle ali enormi. Sono marroni, screziate di bianco. Lui la guarda da vicino, con l'aria di chi si chiede che cosa sia quella meraviglia. Corsica 1987. Ho 4 anni e sto facendo proprio quello che avrei voluto fare anche da grande. Studiare gli insetti. E quello sguardo da bambino mi ricorda di continuare a stupirmi. Sempre. Michele. In questa foto invece c'è una bambina al timone di una barca a vela. Ha addosso una maglietta bianca e ha il mare dietro di lei. Sorride, sembra fiera. E ha anche l'aria di chi sta sfidando qualcuno. Tiene 2 mani sul timone, ma sta in equilibrio su una gamba sola. 1999, credo fossimo in zona Caprera, Sardegna, arcipelago della Maddalena. Avevo 12 anni. E mentre mi scattavano la foto mi dicevano: a 18 anni te ne vergognerai. Margherita. Questa foto invece è una foto di gruppo. Avete presente di quelle scattate a scuola da bambini? Tutti indossano un grembiule nero. Sono esattamente 18 ragazzini delle elementari e a destra c'è un maestro in cappotto, cravatta e cappello in testa. La foto è in bianco e nero. Era l'anno 1971. Io sono il secondo seduto da sinistra. Erano giorni felici e non lo sapevo. Avevo un po' il broncio. Non ho mai voluto andare a scuola, eppure ero bravissimo. Imparai a leggere e scrivere già a 4 anni, ma di scuola niente. In questa foto anche uno dei miei compagni che nel 1983 avrei ritrovato assunto in banca con me lo stesso giorno. Ultimo seduto da sinistra. Roberto. Questa invece è una foto con il bordo bianco zigrinato, sapete, di quelle che venivano stampate come se fossero un piccolo quadretto. C'è un bambino in maglietta e mutande bianche. Ha i capelli ricci e sorride. Tiene una mano bassa e l'altra sollevata, come in una danza. Correva forse il 1965, nel polveroso cortile del nostro vecchio paese. Nel 1976 il terremoto appianò tutto, dando vita ad una nuova era. Fabrizio. E questa è l'ultima foto. C'è una bambina su una spiaggia. È di profilo senza costume. Ha i capelli a caschetto bagnati. Mi sa che è appena uscita dall'acqua. Si trova in piedi tra i 2 scafi di un pattino a remi. Non guarda in camera perché è troppo intenta a bere a garganella da un annaffiatoio fucsia. Alla sete non si comanda. Varigotti. Avrà avuto 4 anni. Isabella. The times we had, oh, when the wind. Where they had to. 46 anni quest'anno, li ho compiuti a luglio, e sono in quell'età in cui ti capita di andare sempre più di frequente o ai matrimoni oppure a delle feste di compleanno di gente che svolta la boa, no? Per cui i 30 sono andati e invece capita di avere amici che compiono 40 anni. Ieri sera sono stato a una cena di compleanno di un amico che appunto proprio oggi compie 40 anni, quindi abbiamo aspettato la mezzanotte per festeggiarlo. E questa non è l'età in cui tutto sembra facile e tutto sembra perfetto, anzi questa è esattamente l'età ed esattamente la stagione, ma è anche la generazione in cui tutto sembra molto più complicato di quanto non sia, perché tutto è più difficile. La serata è stata molto divertente, molto piacevole, ma una parte della serata è stata dedicata a una cosa anche poco, diciamo, simpatica, ed era che lui stava mandando degli sms a una ragazza che gli piace, ai quali lei rispondeva in maniera molto sgarbata, e lui ce li leggeva, quindi era divertente la dinamica che lui ci leggesse quello che lei gli scriveva, anche se quello che lei gli scriveva era abbastanza terribile, e tutti diciamo ma lascia stare, lascia stare, lascia stare. Alla fine di una lunga sequenza di messaggi, lui ha avuto la forza e secondo me l'onestà per mandarle un messaggio molto semplice che diceva così: guarda, ho compiuto 40 anni, sai cosa? La vita è più semplice di così. Non so se la vita sia più semplice di così e non so se sia più semplice di quando avevamo 6 anni, però mi piace immaginare che lui abbia ragione. Grazie a Tiziano Bonini, grazie a Fabio Rudi Cantadori, a Stefano D'Andrea e grazie anche e soprattutto a Margherita Ina, che è a casa e sta vomitando il vomitabile. La storia di oggi era la storia di Marzia, parlava della vita vista da bambini. La storia di domani invece è quella di Simona e racconta dell'ultimo appuntamento e dell'odore che ha. Durante il primo incontro sei un'allucinazione sudata, su tacchi troppo alti. Non capisci niente. Passi le ore a prepararti, a dare il meglio di te. Ma non sei tu. Quella lì non sei tu. Sei una speranza. Invece all'ultimo appuntamento sei proprio tu. Intera, nuda e svelata. Ben piantata. Composta e rigida sulla sedia. Al patibolo. E di solito senza vino.